questo mondo tanto grande, noi siamo tutti dei piccini, dagli Appennini alle Ande, da San Francisco a Pechino, ce lo dimostra un raccontino di un bel bambino che è un tesoro, Marcellino Panevino, che racchiudo qui nel cuore. Quel piccolo trovatello è stato deposto un dì sulla porta del convento per ripeterci ogni or così. Ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino, ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino. Noi giochiamo a farli affari con sottrazioni ed addizioni, noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose belle e quindi nascono dei guai. Marcellino, pane e vino non l'avrebbe fatto mai. I 12 fraticelli che l'hanno trovato un dì sulla porta del convento, ci ripetono ancor così. Ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino, ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino. Ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino.